fantastico vedere delle macchine americane che aiutano a portare la pace e la libertà nel mondo. Il potere di dare la vita e il potere di toglierla. Volete accomodarvi, signori? L'era dei robot di Simone Spezia. Subito dopo la prima puntata e anche dopo le altre, via mail, sui social, qualcuno mi ha scritto che l'argomento che stiamo trattando e come lo trattiamo, questo avvento, questa seconda rivoluzione delle macchine, come qualcuno l'ha chiamata, è per certi versi e per molti aspetti, soprattutto quando parliamo di intelligenza artificiale, un po' inquietante, perché non avete ancora sentito la puntata di oggi. Tra pochi mesi perfezionerà un tipo rivoluzionario di microprocessore. Continua. E dopo? Fra 3 anni la Cyberdyne diverrà fornitrice di sistemi informatici militari. Tutti i bombardieri Stealth verranno dotati di computer e saranno automizzati, il che significa che voleranno senza bisogno di equipaggio. Lo Skynet verrà finanziato ufficialmente. Il sistema entrerà in funzione il 4 agosto 1997. Il sistema di difesa prescinde dalle decisioni umane. Skynet comincerà ad autoistruirsi. Diverrà autocosciente alle 2:14 del giorno 29 agosto. Prese dal panico, le autorità gli ordineranno di disinserirsi. Skynet non obbedisce. Già, e lancia i suoi missili contro i bersagli in Russia. Perché attaccare la Russia? Non è amica nostra adesso. Perché Skynet sa che il contrattacco russo eliminerà i suoi nemici da questa parte. E ci siamo fatti aiutare da Terminator 2 per raccontare quello di cui parliamo. Oggi parliamo prevalentemente di come si fa o di come si farà la guerra. Su questo abbiamo un'ampia letteratura e cinematografia fantascientifica, da Terminator a Guerre Stellari, soprattutto i nuovi episodi che poi sono quelli vecchi in realtà, o viceversa, non si è capito mai tanto bene. Questa è l'era dei robot, una buona giornata da Simone Spezia e una buona giornata anche dalla macchina che prima o poi ne prenderà il posto. Vi ricordo, come sempre, che per suggerire un nome da darmi potete scrivere a eradeirobot@radio24.it. Il tema, dal quale non siamo molto lontani, è quello di macchine autonome che in autonomia fanno la guerra con una supervisione umana, ma molto superficiale, di controllo, oppure di guida a distanza, ma come sapete questo già avviene. Un paio di compagni robotici ci aiuteranno con la loro voce, forse in questo caso più efficace della mia a raccontare qualcosa. Puoi zoomare un po', giusto per dargli un'occhiata? Almeno 4 sul retro del pick-up. È quello là, sotto la freccia nord, sembra che ha una cosa stretta al petto. Sì, è strana questa macchia fredda che hanno sul petto. Si sono messi a fare così ultimamente, avvolgono le loro cazzo di armi nei vestiti per impedirci di fare una identificazione positiva. Il dialogo è il dialogo tra due persone che negli Stati Uniti in remoto stanno pilotando un drone che colpisce in Afghanistan. Un dialogo che abbiamo tratto da un bel libro, ce l'ho in lettura adesso, sono franco con voi, non l'ho letto fino in fondo. È un libro di Grégoire Chamaillou, si intitola Teoria del drone, principi filosofici del diritto di uccidere. Ne parleremo tra poco perché vogliamo cercare anche un po' di salire di livello, no? Oltre a capire qual è lo stato di avanzamento della guerra robotica. Ci sono dei piloti, seppure lontani. La tecnologia si sta spingendo ancora più avanti. In fase di test da 3 o 4 anni un aereo che si chiama X-47B, che ha dimostrato di poter atterrare e decollare da una portaerei, le due manovre più difficili, tra le più difficili, di poterlo fare in completa autonomia, cioè senza che qualcuno lo guidasse da terra o dentro la cabina. Inizio da qua presentandovi il nostro primo ospite, che è una voce consueta in realtà di Radio 24 e di Effetto Giorno, la trasmissione che conduco normalmente tutti i giorni dalle 13 alle 14, è Gian Andrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa. Gian Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e ai radioascoltatori. Allora, a che punto siamo dal lato dell'automazione completa dei robot da guerra? Beh, siamo a un buon punto, ma sempre nell'ambito di sistemi che hanno bisogno dell'uomo, almeno questo è quello che appare, che hanno bisogno dell'uomo per la programmazione di quello che faranno anche in automazione, anche con automatismi. Già oggi, già parlavi delle X-47B, e già oggi i velivoli con pilota hanno l'appontaggio sulle portaerei, specie in condizioni meteo difficili, servito dal computer, quindi impostato dal computer. diciamo che negli ultimi anni, dalla guerra del Kosovo in avanti, l'impiego di droni e negli ultimi anni anche per azioni di attacco, con tutto il dibattito che si è aperto negli Stati Uniti proprio in queste, per questo tipo di impiego dei droni nelle operazioni per eliminare terroristi o comunque esponenti di gruppi avversivi, da Al-Qaeda oggi lo Stato Islamico, in diverse parti del mondo. Ecco, questo tipo di operazioni vengono eseguite tranquillamente in remoto. In remoto vuol dire anche da molto lontano. Allora, questo il quadro e come dire lo stato dell'avanzamento. Ci citava Gian Andrea Gagliani di piloti già assistiti sostanzialmente nel decollo e nell'atterraggio da portaerei, soprattutto in fase difficile. Il punto è un altro, cioè un punto per certi versi etico, per certi versi filosofico. Insomma, se colpisce l'obiettivo sbagliato, se fa una strage di civili, di chi sono le responsabilità? Del comandante che ha dato l'ordine? Non parliamo naturalmente di quelli pilotati in remoto dal Nevada, ma parliamo appunto di robot eventualmente autonomi, del politico che ha scelto di usare questo specifico mezzo, di chi ha prodotto questo veicolo perché c'è stato un malfunzionamento, e ancora peggio ovviamente uno scenario in stile Terminator. I problemi sono enormi. Vi citavo prima questo libro di Grégoire Chamaillou, ve ne voglio leggere un passaggio perché secondo me è interessante, ci dà un po' la misura di come cambia anche per i soldati e anche per i militari l'etica con questo tipo di robot. Il tentativo di sradicamento di ogni reciprocità nell'esposizione alla violenza e nelle ostilità riconfigura non solo la condotta materiale della violenza armata, tecnicamente, tatticamente, psichicamente, ma anche i principi tradizionali dell'ethos militare. Considerato con il metro delle categorie classiche, il drone apparirebbe come l'arma del vigliacco. Questo non impedisce ai suoi difensori di proclamarla l'arma più etica che l'umanità abbia mai conosciuto. Operare questa conversione morale, questa trasmutazione dei valori, è il compito al quale si dedicano i filosofi che operano nel piccolo campo dell'etica militare. Il drone, dicono, è l'arma umanitaria per eccellenza. Ho qua in studio con me e al telefono anche due persone che sono sicuro che non sono d'accordo su questo. Innanzitutto Francesco Vignarca della Rete del Disarmo, che è anche il referente italiano di una iniziativa che si chiama Stop Killer Robots. Francesco Vignarca, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E buongiorno al professor Guglielmo Tamburini, che insegna all'Università di Napoli. È un esperto di intelligenza artificiale ed è membro di un comitato per la regolamentazione dei robot da guerra, un comitato internazionale, è il membro italiano. Professor Tamburini, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Si faccia prima di tutto fare una domanda tecnica: quanto siamo distanti da un robot che autonomamente uccide? Ma dal punto di vista dello sviluppo tecnologico ci sono ancora molti passi. Se noi pensiamo a un robot che sia in grado di riconoscere per esempio una controparte militare, cioè il nemico, da una stante oppure da qualcuno che si è arreso, queste sono sfide che l'intelligenza artificiale non sa ancora affrontare. Quindi da questo punto di vista avere un robot completamente autonomo, in grado di comportarsi almeno bene quanto un soldato umano in un campo di battaglia convenzionale è una prospettiva piuttosto distante. E anche chi sta lavorando allo sviluppo di questi sistemi ammette chiaramente, se non vuole essere ideologico e non vuole fare inquinamento informativo per la deliberazione pubblica su questi temi, ammette che si tratta di un obiettivo lontano. Quanto lontano, mi scusi professore, per dare un'idea di cosa intende per lontano un esperto di intelligenza artificiale? Ma guardi, sono delle questioni che per le quali è difficile dare una scala temporale, perché se è vero che oggi il riconoscimento di un volto umano da un non volto è una roba che è ormai alla portata dei sistemi di intelligenza artificiale, quella di riconoscere per esempio qualcuno che si arrende con un gesto non convenzionale oppure se sta puntando un'arma nella cosiddetta nebbia del conflitto, della guerra contro di te, oppure semplicemente semplicemente sta facendo altre cose e quindi non è un obiettivo legittimo, ecco, sono delle questioni che bisogna affrontare da problemi di fondo, cioè che cosa vuol dire la percezione artificiale di queste situazioni in contesti variabili, non in contesti ben determinati, ai quali i robot ovviamente sono abituati, come per esempio nella fabbrica automatizzata, oppure in contesti in cui, per così dire, l'ambiente si adatta al robot, e non in contesti bellici dove per definizione il nemico cerca la sorpresa e quindi di sconvolgere quelli che sono i modelli che tu puoi inserire in un robot in qualche modo. Allora, il punto è molto interessante da un punto di vista tecnologico. Come si diceva, gli aspetti che vogliamo toccare sono anche quelli etici, lo faremo con Francesco Vignarca, lo faremo con lei e lo voglio fare anche ovviamente con Gianandrea Gagliani, ma abbiamo prima una pausa. Aprite il fuoco. L'era dei robot. E continuiamo a farci aiutare dalla cinematografia per presentare i temi. In questo caso stiamo parlando di Guerre Stellari, se non erro il numero 2, ma ripeto, come ho detto all'inizio, ormai mi confondo sempre perché i primi che ho visto sono il 4, il 5 e il 6 e poi ho perso di vista il tutto. Francesco Vignarca, vorrei capire da lei quali sono i problemi etici che emergono, che probabilmente in parte coincidono anche con i problemi tecnologici che poneva il professore. Prego. Sì, noi abbiamo iniziato a livello internazionale questa campagna, che è una delle pochissime che tende alla messa al bando o quantomeno alla regolamentazione di un sistema d'arma prima che quest'arma sia sviluppata. Di solito succede il contrario, purtroppo. E l'aspetto etico è quello principale. Questo aspetto etico per cui non c'è più, da un lato, una assunzione di responsabilità da parte di qualcuno che decide in guerra se sparare, se non sparare, su chi sparare, se uccidere, se salvare una vita. E da questo deriva anche quanto è stato accennato prima, un controllo sulle responsabilità anche a monte, perché se è vero che un soldato poi sul campo di battaglia è responsabile per quello che fa, ma anche per dove viene mandato e per cosa viene mandato a fare, e c'è una catena di accountability, come si dice in inglese, che invece non c'è e viene violata. Ma questa cosa è preoccupante anche perché modifica la guerra. La guerra con questi strumenti, e non solo con questi strumenti, ma già con le trasformazioni che ha avuto negli ultimi anni, ad esempio con una privatizzazione estrema della guerra, cambia. E se è vero che da un certo punto di vista coloro che sono fautori dei killer robots, dei droni, dicono si va verso un'arma che è più asettica e quindi più umanitaria, loro si dimenticano che fuori dal campo di battaglia e da chi sta combattendo ci sono i civili. Già adesso i civili sono quelli che soffrono di più nelle guerre. Il problema è che nel riconoscimento dei droni o in più delle fully autonomous weapons i civili sono sempre più esclusi, quindi tutta la teoria che noi proponiamo anche per fare una regolamentazione. Ma di i civili però vengono colpiti anche nella guerra tradizionale in realtà, e anche con non sempre con una capacità di discernimento particolarmente forte. Assolutamente. Da parte dei militari. È la trasformazione che c'è stata, cioè i civili fino a 80-90 anni fa erano quelli che morivano di meno nelle guerre, oggi sono oltre il 70-80% dei morti o feriti nelle guerre. Il problema è che continuare su questa strada potrebbe comportare un inasprimento di questa situazione, cioè paradossalmente potrebbe salvare vite militari, uno dei motivi per cui i promotori di questi programmi dicono noi mandiamo un drone, quindi non sacrifichiamo un nostro soldato che poi torna a casa con la bandiera sulla bara. Il problema è che poi non si sa quella macchina, chiamiamola così, quel killer robot come diciamo noi, cosa va a fare e soprattutto chi potrà essere responsabile di quello che andrà a fare. Vorrei, nell'opinione, poi ritorneremo al professor Tamburini, di Gianandrea Gagliani esattamente su questi punti, perché Gianandrea, la mia impressione è che al di là della... come dire, io non esprimo posizioni su questo, della lotta di Vignarca e di chi crede in questa battaglia, possa essere positiva o negativa, sinceramente non lo so e non ne so abbastanza. Al di là della battaglia che loro stanno combattendo, l'impressione è che la direzione sia quella, inevitabilmente, insomma, ed è molto difficile che si torni indietro, soprattutto dopo tutta una serie di investimenti che sono stati fatti, di documenti presentati al Dipartimento della Difesa americana che mirano esattamente a questo. Vorrei capire se vedi anche tu, insomma, questi problemi, se vedi questi dubbi e queste perplessità, no? Che una parte del mondo del disarmo, appunto, che Vignarca qua rappresenta, vedono. Ma io vedo un problema diverso, anche se forse parallelo a questo, perché parliamoci chiaro, la tecnologia ha ridotto il numero di morti in guerra sotto tutti i punti di vista. Nella seconda guerra mondiale si radivano solo le città, oggi si colpiscono obiettivi con armi di precisione lanciate da, che sono, possono essere missili lanciati da terra anche da molto lontano, o possono essere lanciati da aeroplani col pilota, domani lo saranno dagli UCAV, dai velivoli da combattimento senza pilota ma guidati da remoto, e si colpiscono obiettivi in maniera più precisa, si sono ridotti in maniera spaventosa i danni collaterali, cioè le vittime civili che non si volevano provocare, si sono ridotti in maniera elevatissima rispetto alle guerre del passato, alla seconda guerra mondiale, al Vietnam, alla Corea, i blue on blue, cioè le uccisioni di propri soldati per errore. Nella seconda guerra mondiale l'errore di calcolo sul fuoco d'artiglieria sterminò interi reggimenti. Prendiamo un esempio, statunitensi alle Ardenne nel 1944. Oggi, quando vengono uccisi per errore alcuni soldati, di questa cosa va in prima pagina, ma sono numeri molto ridotti rispetto al passato. Mi sembra Gianandrea, ti interrompo, sì. Che tu la pensi un po' come... sentiamo questo passaggio di Iron Man 2, va. Drone è migliore. Cosa? Drone è migliore? Perché drone è migliore? Perché drone è migliore? Persone cercano guai. Fidati, drone è migliore. È un po' così, Gianandrea? No, io penso invece che il problema sia un altro, cioè il drone, parlare di guerra vigliacca è un'assurdità, tanto perché parlare di moralismo nelle guerre, a mio parere, è un po' stucchevole, ma per una ragione semplice, perché nella storia ovviamente qualunque progresso tecnologico ha comportato dei vantaggi per chi aveva questa tecnologia. Possiamo definire vigliacchi i tedeschi che hanno affrontato coi panzer le brigate di cavalleria polacche solo perché erano inferiori. Insomma, non parliamo di una partita di calcio, non è sport, non dobbiamo essere 11 contro 11, non dobbiamo essere sportivi. La guerra è fatta, segue altre regole, non sono quelle della briscola o del 3-7. Allora ci dici quali sono i tuoi dubbi? I miei dubbi sono questi, cioè che questi droni, questi strumenti tecnologici nascono dall'esigenza di ridurre il più possibile le proprie perdite soprattutto, poi riducono le perdite in generale. Perché? Perché le società occidentali, quelle che hanno la tecnologia, gli Stati Uniti in testa, ma anche gli europei, non hanno più la capacità di sopportare le perdite in combattimento dei propri soldati. Basti vedere che i morti che abbiamo avuto noi occidentali, dico tutti noi, in Iraq e in Afghanistan, in 15 anni di guerra, sono in realtà, come numero di soldati uccisi, inferiori ai militari occidentali, anglosassoni, tedeschi e italiani, che morirono in una settimana e la lamenta. Nell'inverno, novembre 42. E allora questa incapacità di accettare il fatto che le perdite in guerra ci sono, che la guerra comporta perdite, rischia poi di portarci di fronte a delle incapacità di vincere i conflitti nonostante la tecnologia. Facciamo l'esempio più eclatante dei giorni nostri. Quando l'avversario da combattere è lo Stato Islamico, dove la tecnologia probabilmente non è sufficiente, dove per essere risolutivi occorrerebbero anche forse un paio di brigate meccanizzate sul terreno, e questo nessuno ha la volontà e la capacità politica di farlo, allora lì arriva il limite. La tecnologia cerca di sopperire alla nostra incapacità di affrontare la guerra e di subirne anche le conseguenze in termini di perdita. E questo diventa un limite, perché finché l'avversario è ad alta tecnologia, chi è più tecnologico forse alla fine vince. Se l'avversario è primitivo e può sopportare tante perdite, come l'hanno potuto fare i talebani e oggi lo Stato Islamico, allora alla fine si rischia di non riuscire a vincere nonostante la tecnologia elevatissima. Allora, il punto è interessante ed è un altro punto di vista, ed è esattamente per questo che abbiamo voluto mettere anche a confronto Vignacca e Gaiani. Vorrei sentire l'opinione del professor Tamburini, anche lui mi sembra piuttosto contrario, no, a questo impiego della tecnologia militare in questo modo, e soprattutto, come dire, la più avanzata è quella che verrà nel futuro, professore. Ma guardi, mi pare che stiamo sovrapponendo due temi. Uno è su armi robotiche che hanno ancora un controllo significativo umano, i droni. E là io non ho nulla da dire sulla riduzione delle vittime civili o militari, anche se ovviamente ce ne sono tante di vittime civili che non vengono altrettanto pubblicizzate, diciamo, sui giornali. Però lì in qualche modo c'è una catena di responsabilità, se ci sono delle responsabilità oppure delle negligenze vengono messe in luce. Quindi lì siamo ancora in un certo senso in una guerra di tipo tradizionale, c'è la catena di comando, c'è la responsabilità del rango e c'è quindi anche l'assunzione di responsabilità da parte di chi sia. Nel momento in cui parliamo di armi robotiche autonome, il primo punto da dire è che tutte le persone avvertite dal punto di vista tecnologico sono d'accordo su una moratoria, perché oggi non sono in grado queste armi di riuscire a rispettare le leggi umanitarie in guerra, così come sono codificate per esempio nelle convenzioni di Ginevra, a un livello ma neanche lontanamente vicino a quello degli esseri umani. Quindi a questo punto diciamo non si può pensare di mettere queste armi in campo violando qualcosa, appunto, e poi voglio dire, nella guerra non è che ci sono moralismi, c'è anche quelle che sono delle leggi etiche che vengono rispettate o perlomeno che vengono imposte a livello internazionale, poi chi le viola si prende responsabilità e forse verrà punito davanti al Tribunale dell'Aia. Questo è il primo punto. Secondo punto, diciamo, la visione di tipo etico-morale è un po' più ampia semplicemente del fatto delle vittime più o meno eccetera. Da un lato abbiamo il problema di dire ma vogliamo dare una decisione di vita e di morte a una macchina che non ha più la supervisione di un essere umano, sapendo benissimo che il controllo delle macchine cibernetiche, già lo diceva Wiener e lo ci hanno fatto vedere i film di cui lei ci ha presentato degli stralci, poi sfuggono al controllo. Perché? Perché sono macchine adattative, in grado di apprendere, in grado di modificare il loro comportamento in modi che il progettista non può sempre controllare. Questo è il primo punto, diciamo. Quindi vogliamo dare questa decisione, questa capacità di decidere della vita o della morte di una persona, oppure vogliamo riservare ad altri esseri umani questo compito, per quanto ingrato, sgradevole e diciamo tante volte anche non accettabile? Questo è il primo punto. Il secondo punto che mi preme sottolineare è che l'etica non ha a che fare solo con la deontologia, ha a che fare anche con le conseguenze delle nostre azioni. E allora, se noi pensiamo ai droni di adesso, che però diventano autonomi e diventano sciami di migliaia di questi droni e che fanno un primo colpo, per esempio, come si diceva prima, sull'arsenale nucleare dell'Unione Sovietica, oppure, scusatemi, vorrei ancora, sono rimasto sì, a questi tempi, della Russia, oppure colpisce tutte le infrastrutture cinesi, a cominciare dalle centrali invece per la produzione dell'elettricità, tutte le altre infrastrutture di un paese, e quindi ne impedisce quello che viene chiamato il secondo colpo di risposta alla retaliation. Bene, questo sviluppo di queste armi autonome, che naturalmente non sono soggette ai limiti, soprattutto questi velivoli, soggetti ai limiti che hanno i piloti, che non possono volare a velocità eccessive, mentre qua si potrebbe andare benissimo al di là dei limiti imposti dalla fisiologia umana, bene, questi tipi di armi porterebbero a una destabilizzazione globale. E alla fine persino, come dicevo appunto per esempio nel caso di azioni di attacco rivolte ai silos dei missili con testate nucleari, a una destabilizzazione nucleare. Allora, se noi pensiamo che il bene più alto è quello invece di mantenere la pace nucleare e il male più basso è quello lì di ripartire con una escalation di tipo nucleare, bene, questo è un argomento etico di tipo diverso contro l'uso delle armi robotiche autonome. Grazie davvero e grazie a tutti gli ospiti. La trasmissione finisce qua. Ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30. Scaricate il podcast e, se avete gradito, raccomandate la trasmissione ad altri esseri umani. Ho analizzato i dati e so già se c'è qualcosa che non va, ma mi manca il vostro punto di vista. Scrivetemi. Una buona giornata da Simone Spezia.